La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Non c'è divinità tranne Allah, il re, il vero, il mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul yaqin. Non c'è divinità tranne Allah, il re, il vero, il yaqin. La ilaha illallahul aliyul azim. Non c'è divinità tranne Allah, l'altissimo, l'azim. La ilaha illallahul halimul karim. Non c'è divinità tranne Allah, il dolcissimo, il karim.